Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Il volto garrulo e sorridente di una giovane viaggiatrice che spesso incontro lungo le mie peregrinazioni sulle rotaie mi fa capire che qualcosa è accaduto nella sua vita. Spesso l'ho incontrata e spesso le ho estorto le informazioni riservate sulla sua vita sentimentale, sul fidanzato che le regalò l'anello di legno e infatti l'amore finì. E spesso, altre volte, il suo turbinoso saltellare tra un amore e l'altro alla ricerca dell'uomo della vita mi sembrava che la rendesse più vecchia di quello che realmente è. E oggi la vedo improvvisamente ringiovanita. Sembra una liceale, sembra una ragazzina delle scuole medie. Quale gioioso evento è accaduto nella sua vita? Non posso fare a meno che domandarglielo. Possiamo parlare dell'ansia del viaggio? Sì, perché i viaggi ti mettono ansia. No, i viaggi mi mettono in ansia quando non li faccio da sola. Ecco. Quindi diciamo anche la più affascinante delle persone, quando ci sta insieme 4 giorni, ti uccide. Cosa succede? Succede a tutti. No, ma non è tanto quello, anche con non sono mai riuscita nemmeno a fare viaggi con le amiche, in realtà. Pensa a quelle che vanno in gruppi di 4-5 amiche. No. A me mi viene un attacco di ansia soltanto a pensarci. Ma qual è il luogo in cui si scatena l'ansia? Quando dovete andare in bagno, c'è un bagno solo? Sin dal principio, sin dalla partenza. Perché in viaggio deve essere basato sui propri ritmi. Il viaggio deve essere basato sulla solitudine, sul proprio ritmo. Non poi quello che c'ha fame quando tu non c'hai fame. No. O quello che tu c'hai fame e dice no, adesso che non mangiamo, come fai? E poi l'obbligo di visitare. Mamma mia, che massacro. I monumenti, le cose. No, è un massacro, non si riuscirei mai. No. Ma già in due, guarda che anche in due è terribile. Sì. Anche in due è terribile. No, infatti, facciamo un viaggio d'amore, ma un viaggio d'amore è la cosa massacrante. Sì. Se uno vuole massacrare un amore, fa un viaggio d'amore. Sì. Infatti l'unico, cioè la modalità di viaggio che mi piace fare è partire per raggiungere un'amica, un amico che si trova già in una città. Ci stai insieme una giornata, poi te ne vai, ognuno sì, a casa. Sì, o comunque stare anche sì 2 giorni, ma comunque loro hanno le loro cose da fare, quindi poi magari viene ognuno con la sua casa, città. Col suo albergo, ognuno tranquillo. No, vabbè, magari ospitata, è anche poi carino vedere come vivono gli amici, però proprio partire, andare in... Ma non che sei obbligato a stare con lei tutto il giorno. No, perché magari c'è la propria vita, magari il mattino deve lavorare e poi tu fai i tuoi giri e lo rivedi il pomeriggio. Il dramma è prendere un aereo insieme, soggiornare insieme, fare le visite insieme, al terzo cenare giorno, insieme, terzo giorno tutto, ritornare insieme, una chiave soltanto dell'albergo. Penso tu hai voglia di farti una passeggiata, non io torno, sono stanco. Terribile. Oppure viceversa, è tu non ce la fai più a camminare, che bello, andiamo a vedere ancora quella mostra. Sì. E tu dici, ma che me ne importa? Sì. Una tortura, vero? No, è terribile. Sai perché fanno tutte queste pubblicità? Che bello, un bel viaggio. Il cuoricino con troppe le persone che viaggiano. Non lo capisco. Bisognerebbe darsi degli itinerari. Cioè, ci vediamo a Parigi. Sì. Ci vediamo a Londra. Sì. Ci vediamo, stiamo insieme un giorno, poi ognuno riparte. Uno parte con la barca a remi, l'altro con la bicicletta, con l'aereo, come vuole. Oppure è bello quando si va tipo in montagna in due, e allora a quel punto è bene essere in due. Beh, lì è sopravvivenza. Esatto. Di notte c'hanno i lupi, con la tendina, capito? Esattamente. Però il viaggio, il turismo nella capitale con le amiche o in coppia, no. Ma le amiche vanno per risparmiare, vanno in 4, costa meno, capito? Sì. Si prende una stanza scamuffa in un B&B orrendo, fanno la fila la sera davanti al bagno e si scannerebbero. C'è sempre quella che vuol mangiare, quella che non vuol mangiare. Poi c'è sempre, poi ci sono tutte le teorie che devi partire in, non in tre, perché se poi si fanno due, i gruppetti. Se poi una non vuole fare una cosa, allora rimane da sola. Allora sempre da quattro in su, di modo che se sempre pari il numero. No, da 4, 5, 6, però da 4 in su, di modo che mai una rimanga da sola, se ha la volontà di tornare a casa. A me tutte queste cose, cioè quando mi raccontano questi ragionamenti dietro a una vacanza insieme, mi sento male. Il principio di avventura nel mondo, vanno sempre di gruppi che nemmeno si conoscono. Sì. Devono affratellarsi, essere amici. Puoi fare il gruppo su. Però loro anche lì è sopravvivenza, perché comunque devono fare delle avventura, quindi insomma fare la vacanza con pochi soldi, quello è l'unico elemento di rischio. Sì. Risparmiare il più possibile, poi di avventuroso non c'è niente. So, per me il viaggio è da soli. Quindi eccomi qua in treno da sola. Vabbè, sei sola. Sì. Quindi capisco questo momento di solitudine per te. Vabbè, non c'è niente di strano. Vedo una luce nuova nel tuo volto, quindi immagino che sei nuovamente in quella fase gioiosa in cui uno si guarda intorno, in cui la mamma e il papà ti dicono come fai, con chi esci. No, non ne parliamo. Sì. Non ne parliamo. Perché? No, mamma, sì, mamma e papà. Ma quanti anni hai, scusate? Sono ancora, ne devo compiere 30. E ancora papà e mamma naturalmente decidono, dicono, entrano nella tua vita. Vabbè, si informano con la discrezione, con il tatto necessario. Con poco tatto e poca discrezione, a seconda dell'uno dell'altro, però sì, si informano sostanzialmente. Mi pare che più che vedermi felice con qualcuno, mirino ad avere dei nipotini. No, ancora esiste questa roba. Sì. No, I won't. si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ancora esiste, diciamo, in una latitudine al di fuori del sospetto, della tradizione della figlianza, vogliono ancora il nipotino. Se ne muoiono di avere nipotini. Cioè ti guardano, perché non ci dai un nipotino? Sì. Mamma sta anche comprando dei carillon. Carillon perché ancora deve trovare l'uomo, sposarsi, sì. Concepire, partorire. Sì. E lei, siccome adesso c'ha Amazon, l'abbonamento Amazon Prime, non so, sta sempre su Amazon, e poi a un certo punto... Acquisti compulsivi, e io ogni tanto torno a casa e ci sono dei carillon attaccati perché in vari punti. Perché tu leghi il carillon al bambino? Perché leghi il carillon al bambino? Ma lei mi fa, perché così poi quando ci sarà un nipotino non ho resistito. Cioè, ma sta roba usava negli anni 50 il carillon, capito, che girava con le... Allora, penso sia la crisi... Le cosine della Chicco. Cioè adesso i bambini gli attacchi un'app e gli metti quella con le cuffiette, stanno buoni. Vabbè, comunque, insomma, penso sia tipo la crisi dei 60 anni. Ma io ce l'ho 60 anni, non c'ho nessuna crisi. Manco mi sogno avere i nipotini, anzi... Vabbè, ma la declinerà in altro modo. Sì, certo. E quindi mi compra, insomma, comincia a comprare le cose per i bambini che non ma anche so le scarpettine dove. Di lana, no? Spero. No, ma poi è inquietante. Cosa inquietante. Non lo so, rientro, vado a trovare mia madre e vedo che ha comprato le cose per dei nipoti che... Sì, boh, ma non c'è manco un marito, te. Appunto. Poi fa, vabbè, però per il era così bello, lo teniamo lì. Spera tu diventi una ragazza madre. Sì. Oddio. Ma non può andare in un asilo a fare la maestra volontaria, non so queste cose qua. Glielo proporrò. Ma pure papà, per esempio, c'ha un'altalena... Ha comprato una casa nuova, c'erano delle altalene dei precedenti proprietari, e comunque non è che le ha tolte, le tiene lì. Ma e ogni volta, sì, e ogni volta che vado a trovare c'è questa altalena che mi sembra che mi guardi rinfacciando. Sembra un film dell'orrore. Sembra che appare il bambino fantasma a quel punto, sì. Che va sull'altalena, senti, sì, sempre lo scricchiolio dell'altalena. In memoria del mio fallimento, anno dopo anno c'è questa altalena sempre più rotta che non viene mai riparata perché tanto non ce n'è bisogno, che però rimane lì nell'attesa in cui io cioè, procrei. Fidanzarti, sposarti, sì. Figliare, sì. Cioè essere diciamo fecondata e figliare, sopravvivere al parto, cioè svezzare tuo figlio, fargli fare i primi passi, portarlo all'asilo e poi portarlo all'altalena, che prima di 3-4 anni non ci può andare sull'altalena, no? Sì. E a quel punto, quando può stare sull'altalena, io parto, me ne vado, lo mollo. E dimmi altri segnali, no? Altri segnali quali sono? Vabbè, ogni tanto mia madre fa, sono così, così sola, non ho niente da fare. Certo, se avessi un nipotino e comincia, no? Col senso certo, di se tu avevi un figlio era una pacchia, lo mollavi ai nonni e avevi svoltato. Ma infatti sto quasi pensando... No, se devi farlo ti conviene farlo adesso. Sì. È il momento adesso, glielo dai, fine. Sì. Te lo vai a riprendere a 21 anni. No, io le ho anche detto, mamma, ma se cioè, non possiamo magari adottare un bambino a distanza così ricevere letterine? Ha detto, no, non è la stessa cosa. Un piccolo bambino africano, no, ti manda letterine. Le letterine, le foto no, ha detto che non è la sì, stessa ma cosa. Quelli che manda letterine spesso, sai, ormai hanno 70 anni, sempre la stessa fotina ti mandano, grazie, oggi grazie a te, oggi. No, sì, ma non lo so. Boh, una volta hanno scoperto c'hanno dei giri strani. Poi adesso non voglio mettere in dubbio, cioè, è una cosa bellissima. Beh, però ci sono tanti bambini che avrebbero bisogno. Cioè, ci sono dei gruppi di volontari che si occupano dei bambini che hanno particolari problemi in famiglia. Non lo so. Boh, sa questa, se questa sua passione che vuole occuparsi di infanzia. No, vogliono i nipotini. Eh no, lo vogliono proprio la stirpe. Vogliono la stirpe. Ma tu sei figlia unica? No, c'è una sorella che odia i bambini. È più grande o piccola? Più piccola. E quindi lei, ancora, lei è fuori gioco, sì. Ancora. Comunque sì. Sia fuori gioco. Quindi io nel frattempo viaggio da sola e basta. Certo, cerco Nico, di scappare. Io immagino un tuo potenziale fidanzato che passa un giorno a casa. capito? Adesso no, a trovarti, no. Dice andiamo, vengo a prendere, trova i carillon. Trova i carillon, le scarpettine, le altalene, quelli così. Dice allora quando ci date il nipotino? Lui è la prima uscita. No, sarebbero molto discreti. Cioè, caso. Il suo obiettivo è il primo bacio ancora. E questi già gli dicono del nipotino. Sì. Vabbè, cara mia, quindi qual è la tua alternativa? L'alternativa... Simula una gravidanza esterica. Per 9 mesi stai tranquilla. Oddio, che orrore. E per 9 mesi stai tranquilla. Ma la gravidanza esterica non dura 9 mesi. Beh, può durare un mese. E cioè... tu fai come la signorina Silvani quando la fa credere a Fantozzi che era incinta e voleva fare l'operazione di chirurgia plastica. Ti gonfi la pancia in un palloncino. Per 9 mesi stanno sereni, tranquilli. Poi li deludi, cioè, mamma, l'ho perso. Agghiacciante. Sì, agghiacciante. Però almeno 9 mesi non ti scocciano. No, io voglio fare. Certo, riempirebbero la casa di carrozzine, passeggini, no, biberon. No, un casino. No, non si può. Niente, devono cuocere nel loro brodo e rassegnarsi. E rassegnarsi. Ma 60 anni può far solo lei un altro figlio, scusa. Oggi fanno per miracoli. Carità. Va in qualche paese arabo e gli fanno l'inseminazione eterologa. Che ne so, queste cose qua lo fa lei, no? A 60 anni ancora. Preferivo può. I bambini adottati. Vabbè, con quante le letterine. Ne volete, ragazzi. Comprali un bambolotto. Ci sono quei giapponesi, fanno i bambolottini. Sembra che si muovono, fanno di tutto. Guarda, gli scenari sono sempre più inquietanti, devo dire. No, veramente, sono di gomma, sembra quasi veri. Tipo furbi? Sì. Tipo... Sì, rispondono. Ciao mamma, ciao papà, io ti voglio tanto bene. Va bene, come regalo di Natale lo terrò in considerazione. Sì, certo, sì. Va bene. È come un toy boy, però per giocare a fare la piccola mamma. Sì. Lo cambiano, fa tutto, fa la pupù sintetica, la pipì, gli metti cambio il pannolino, è divertente. Meraviglioso. Fanno in Giappone, penso almeno, immagino, figurati se non lo fanno. Via, lo cerco subito su internet. Grazie. Pensa che bello, lei ti fa il carillon, tu regali il pupattolino col telecomando. Gioca con questo. Grazie. No, e fai felice. L'ordino subito. Brava, basta solo questo. Ciao, io scendo, però buon viaggio. Ciao. Encore un matin comme tant d'autres, la journée déjà bien entamée, j'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la savate pour atteindre la cafetière, la tête dans le fion, je cherche la révélation. Jette un œil dans la rue, les gens ne se regardent même plus, rien n'a changé depuis hier. Le même junkie vissé devant le tabac qui mendie, la même boiteuse avec sa gnôle à la béquille, les mêmes bagnoles pressées et qui se pressent et qui se scratchent en bas de mes escaliers. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la la la la bla bla bla bla. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la la la la bla bla bla bla. Un peu plus tard, le téléphone sonne. C'est Bécassine, ma cousine, qui vient d'être virée de son usine. Elle me déballe ses tracas, je lui demande si ça va. Elle me dit, tu m'écoutes pas, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai la tête en vrac, les impôts me traquent. J'ai même pas de quoi me payer un sac et mon mec me plaque. C'est quoi cette vie, une blague ou une arnaque? Ça fait du bien de vider son sac à la famille. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la la la la bla bla bla bla. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la la la la bla bla bla bla. Je raccroche le combiné, je prends les clés pour aller voir le courrier. Modou des acédiques pour m'informer que j'ai plus de fric. La journée commence très chic. Des petites bourgeoises qui pètent plus haut que leur cul et qui sont abonnées à l'ONU, qui parlent de la famine en repoudrant leurs petites mines. Nous sommes envahis par des vermines. Je suis virulente contre les virus rapides, l'économie de ces raspivides, ces ours qui spéculent à la bourse, atteints de fièvre acheteuse, couchés sur leur pécule. Mais ces animaux-là ne traînent pas dans ma rue, protégés dans leurs zoos par une armée de blaireaux. Et moi je pense à ça, toujours derrière mes carreaux. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la la la la bla bla bla bla. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la la la la. informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Finalmente un viaggiatore di quelli con la V maiuscola. Beh, lo vedo subito dall'imponenza della sua figura. Riempie lo scompartimento. È alto, è grande. E poi soprattutto quel taglio e quel piglio marziale che dimostra che è un uomo che la vita l'ha conosciuta. E comincio a farmi raccontare. Non ci vuole molto, non chiede di meglio. E sciorina immediatamente le foto della sua vita. E ancora come quelli di una volta che tengono le foto nel portafoglio. E sono foto in cui vedo elicotteri militari, vedo soldati con il gommone attraverso una sorta di terreno palustre, vedo uomini in armi che sparano, vedo lui sul ponte di una nave, vedo lui in un sommergibile, poi vedo la sua vita privata, la sua casa, una casa cinese, arredata cinese e con ideogrammi cinesi e addirittura con una moglie asiatica. Beh, mi sembra impossibile non mandare a quest'uomo di cosa parli, di cosa si tratti, quale sia stata la sua vita. E soprattutto chiedo a lui innanzitutto qualcosa che mi ha seguito proprio in questi giorni in maniera abbastanza angosciosa, la vicenda del sommergibile argentino. Beh, lui che mi fa vedere una foto di lui sommergibilista, forse può darmi qualche idea rispetto al contesto, quello che può essere accaduto, o perlomeno dal suo punto di vista cosa può essere accaduto. In marina si dice chi a terra giudica che in mare naviga, quindi non si può sapere cosa sia successo. Se come vero dicono che hanno avuto dei problemi con le batterie se si infiltra acqua marina fanno cloro. Se il battello invece ha avuto un guasto, un collasso, una infiltrazione violenta, fortissima, eccetera, si è inabissato, bisogna vedere che quota è finito. Fino a 250 miglia dalla costa, mi pare che i fondali sono intorno ai 150, 200 metri, 110 così. Quindi potrebbero anche uscire singolarmente fino a 180 metri, possono uscire. Se hanno a bordo le tute, che io lo dico in italiano, 6 MK10, 6 MK12, cioè quelle tute che permettono di fare le uscite singole, se non arriva il DSRV che ti viene a prendere, un mini sommergibile, avrà visto film Ottobre Rosso, tanto per intenderci. Ecco, una cosa del genere. Se è andato nelle fosse, lì c'erano dai 2 ai 3 mila metri, non c'è più, possiamo girarla. Quello che è strano è che non aerei che hanno il magnetic air detection, che è il sistema di rilevazione di anomalie magnetiche data da una massa di metallo, non abbia sentito nulla. O era veramente fuori rotta o veramente qualcuno ha cileccato. Lei ha studiato proprio come ingegnere, quindi diciamo, oltre a essere stato nei sommergibili... La mia tesi è stata proprio sulle celle combustibili, quelle che hanno i sommergibili adesso. E lei ha navigato con i sommergibili? Sì, i sommergibili italiani ovviamente, nell'ambito NATO, sì, dagli anni 70 in poi. Quindi li conosco bene, li amo moltissimo e i migliori amici sono quelli della Marina. Ed è una vita particolare perché il sommergibile, al di là delle... la solita retorica più o meno romantica, non è altro che un aereo che vola nell'acqua, con la differenza rispetto all'aereo che deve sopportare pressioni terribili. Nel caso del sommergibile argentino era un TR-1007 tedesco che è molto vecchio, quindi è come quando un uomo ha raggiunto una certa età, ha bisogno di presidi tipo come dire, gli occhiali, il presidio auditivo, tutte queste cose qua, però lo scafo è sempre quello, quindi comincia a scricchiolare, comincia a avere problemi. In Italia noi facciamo revisioni ogni 3-4 anni, eccetera, il battello viene messo in bacino, vengono fatte poi le prove stensimetriche fuori in mare e si ristabilisce una quota diversa che se si riscontrano delle anomalie alla struttura. Quindi noi queste cose sono molto molto precise. Gli italiani hanno una grossa esperienza nei sommergibili. Poi abbiamo il costruttore nostro che è la Spezia. Ma lei adesso stabilmente non vive più in Italia? No, assolutamente, da diversi anni opero sempre nel ramo della difesa, sono sempre in contatto con la Marina italiana, ma anche con altre marine, con aziende che lavorano nel ramo difesa, sì. Quindi sta fuori, viaggia, diciamo, è apolide, non si sente più, sente in giro un cittadino del mondo. Ma io sono anche di origine tedesca, quindi diciamo che di famiglia ho la possibilità, ho avuto la possibilità di studiare anche a livello internazionale. Io mi sono laureato in Germania e quindi per fortuna, negli anni proprio del casino che c'era in Italia. Quindi cosa succede? Ho sempre avuto modo di girare, poi sia privatamente che con la Marina ho la possibilità di conoscere qualche lingua e quindi mi trovo bene all'estero. In Italia non ho, mi piace, il paese più bello del mondo, però lavorare, chi fa una vita in Italia è un pazzo per me, perché non riuscirà mai a avere, o ha degli utili stellari che poi dopo ci pensa il fisco ad ammazzarti, oppure devi vivere di espedienti, poi con pagamenti che sono risibili, qui si paga 15-30 giorni, già ti guardano male. E quando dice qui, qual è il paese dove si trova meglio? Allora, visto che lei gira molto, qual è il paese in cui Hong stabilmente? Kong, sicuramente. Lei vive a Hong Kong e sta Hong bene? Hong Kong o in Germania, sì, sicuramente. Ecco. Ma Hong Kong è qualcosa di diverso, una città che vive 24 ore, si sta bene, si lavora benissimo, ci sono delle università che lavorano da Dio, ci sono i trasporti che funzionano in maniera eccelsa. Non c'è bisogno di andare in macchina, al di là che uno può aver bisogno per andare in Cina. Infatti c'è il problema della guida a sinistra e guida a destra, ogni tanto dove ci sono i gate per ingresso da Shenzhen per Hong Kong, c'è gente che si impasta perché si deve invertire il senso di guida, quindi c'è gente che non si aspetta, se la trova di fronte, bisogna stare attenti. Ecco, però si sta benissimo. Mi racconta un po' la sua vita, diciamo tutte le sue esperienze militari, civili, personali, un escursus diciamo sulla sua esistenza. Molto brevemente, io sono di Milano, ho studiato dai Salesiani, che Dio li abbia in gloria, solo se ci penso mi vengono i brividi, come lei, anche lei avesse il Salesiano, se non sbaglio. La interrogo, qual era la canzone di Don Bosco? Appunto, è una cosa. Don Bosco ritorna tra i giovani ancora. Ti chiamano frementi di gioia e d'amore. Dietro questi versi si cela un universo. Mi ricordo i prefetti. Ma il prefetto, sì, certo, è il capo assoluto. Ma Dio, sì, appunto. E mi ricordo ancora nel naso l'odore del pomodoro, del loro sugo e dei cavoli. Guardi, mi viene da solo a vomitare, solo a pensare. Lei ha trovato più durezze e asprezze negli anni dei Salesiani o negli anni che ha fatto l'incursore, il paracadutista? Cioè, io vedo le sue foto, ha fatto di tutto. Sì, ma le dico sinceramente, ma sai, l'età è diversa. Allora sicuramente non mi sono trovato bene nel collegio, anche perché io abitavo a 50 metri, a 500 metri dal collegio. Abitavo in Piazzale Baracca, da Piazzale Baracca con somma gente a collegio c'erano 500 metri, quindi la rabbia che avevo, tant'è che quando sono rientrato me sono andato in marina per rappresaglia. Sicuramente in marina mi sono trovato meglio, è stata una sfida per me, mi sono messo alla prova e ho voluto vedere dove erano i miei limiti che ognuno ha. Io ho visto che potevo poi spostare, è un problema di non è solo di fisico, a parte io vabbè sono un po' grosso, un po' grande, però diciamo è un problema di testa, ti deve piacere e a me piaceva fare quello che ho fatto. In più dalle Grazie, arrivando verso la Spezia, sulla litoranea, vedevo da Porta Marola, vedevo questi sommergibili, questi sigari neri, ho detto ciò che proviamo e da allora sono innamorato di quelle bestie. Ma è stato anche, diciamo, operativo in zona d'operazione oppure è stato soltanto... Sì. Sì, che cosa sta? Qual è stato il momento più difficile? Ho fatto delle operazioni, ma però non riesco a non parlarne. Sono operazioni segrete, non si può dire? Beh, tutto quello, guarda che l'Italia ha fuori incursori, San Marco, fuori Parà, fuori carabinieri, ma da tanto in Afghanistan c'è la TF-45, però grazie a lì non si sa nulla. È meglio lasciare le cose come stanno, perché l'italiano è un popolo di ipocriti, con purtroppo un cancro che si chiama Vaticano. Scusi, ma io dico le cose come stanno. Every single year and every song. It's a soothing. si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Per me lo Stato viene prima di tutto. Invece in Italia prima viene la Chiesa. Io non ho mai visto una manifestazione, quale che sia, dove non c'era un vescovo, un cardinale. Che cosa sta lì, questo rappresentante di uno Stato estero? Non lo so. Siamo purtroppo italiani, quindi vabbè. Vabbè, lei è mosso da uno spirito laico, mi sembra chiaro, è un punto di vista rispettabile. Sì, assolutamente. Per me uno può essere una brava persona senza avere religione. Io mi trovo a operare con gente che è agnostica, i cinesi la stragrande maggioranza è agnostica, però sono bravissime persone e io ho trovato la mia vita qui, non c'è dubbio, ed è una cosa con la moglie che ho trovato in aereo, penso è una stewardess della Cathay Pacific, per me è una delle migliori aerolinee del mondo. E come l'ha conosciuta sua moglie? Avevo il piede rotto perché mi ero lanciato col paracadute e ero caduto male, non caduto male, ero finito in una tana di qualcosa, caduto benissimo, cioè arrivato benissimo a terra, ho messo male un piede, si era rotto il piede perché dentro una tana, in qualcosa di talpa, boh, non lo so. E avevo il piedone e quando sono salito sul Frankfurt Hong Kong, c'era l'aereo in business, pagava la società, c'era questa bellissima ragazza molto alta perché è euroasiatica e sorriso, mi ha portato al posto sul capoccione del 747 sulla parte superiore, la parte VIP. E avevo il piedone fuori, quindi siccome avevo il piede non potevo stare verso il finestrino, ho fatto cambio di posto. E poi ci siamo presi in simpatia perché poi io non mi sentivo un malatino, avevo il mio bro bastoncino, ho cominciato a ridere e scherzare perché è una persona con grandissimo humor come piace a me. Poi allora mi ha tirato un tiro mancino quando sono arrivato a Hong Kong alle 6:30, mi ha fatto trovare una carrozzella da invalidi, insomma. E allora poi una presa per il sedere, io ero arrivato lì tranquillo con i miei mezzi, quindi ci figuri, con un sorriso che praticamente gli si abbassarono le orecchie se mi stava prendendo in giro. E mi ha alle persino, guardi, lo giuro, legato con la cinghia di sicurezza e mi ha fatto scivolare il bigliettino da visita. Poi insomma faccio breve, il giorno dopo l'ho chiamata, io allora andavo in un albergo che era il Conrad di Admiralty, che è un Hilton praticamente, e l'ho chiamata, ci siamo sentiti, ci siamo incontrati e poi basta, è andata avanti. E come è andata a finire poi? Adesso abbiamo quattro figli. Siete sposati, quattro figli? Quattro figli, due maschi, un maschio e una femmina, nostri, un maschio e una femmina adottati. Vabbè, è una bella famiglia messo su. Sì, guardi, i nostri, virgolette, hanno tutti gli occhi chiari, verde smeraldo di quelli di mia mamma, e azzurri di mia nonna, caro lì, anch'io gli occhi chiari di mia mamma, ma proprio quelli della bambina, della ragazza ormai, ha gli occhi verde smeraldo di una cinesina, lei si immagini, il bambino ha gli occhi da killer, azzurri, azzurro cielo, e gli altri due sono bellissimi, sono cresciuti insieme in questo orfanotrofio, quando abbiamo deciso di andare a prenderlo avevamo così un maschietto, ma non se fosse arrivata anche una femminuccia, siccome quello orfanotrofio, l'azienda, la nostra, lo sta supportando, è veramente bellissimo, fatto dentro, rifatto tutto, è venuto sto bambinetto che aveva 3 anni scarsi, 2 anni e mezzo, e praticamente è successo che paghi uno e prendi due, perché dietro allo spigolo della porta, dietro allo stipite, c'è una bambinetta con gli occhi nerissimi, bellissima. Questi due bambini sono cresciuti insieme in orfanotrofio, lei dormiva nel lettino con lui e viceversa, quindi dormivano sempre insieme. Allora, siccome io sono un po' alto, quando ho visto mi sono messo in ginocchio per terra e ho allargato le braccia, perché la signora mi ha detto, guarda che se prendi questo di pieno anche quell'altro, e tutti e due mi sono arrivati nelle braccia e siamo usciti con questi due bambini. Adesso come te la passi? Com'è la tua vita? Ma adesso faccio la pallina da flipper perché sono sempre in giro, settimana prossima sono a Roma, alla difesa, per tante altre cosucce nostre, me la passo bene perché mi diverto, perché il mio lavoro mi diverte. Io ho fatto diversi brevetti, sempre nell'ambito della difesa, mi diverto, giuro Nicoletti, mi diverto. Perché ho, la ditta che ho rilevato dal socio nel 2005 aveva 19 persone, 18, 19, adesso ne ha 188, 187. Li pigliamo direttamente all'università, da noi fanno gli stage pagati. Tutti quelli che hanno fatto gli stage da noi, tutti, nessuno escluso, sono stati assunti. Noi abbiamo qui un sistema dove è l'associazione studenti che propone con l'avallo del professore i migliori, e noi abbiamo tutti ingegneri, perché tutta la nostra è R&D, la nostra ricerca e sviluppo, in più facciamo quella roba della difesa. Questi ragazzi sono cresciuti da noi, crescono tutti da noi, tutti. Noi abbiamo anche una foresteria di 14-18 stanze, perché se gente che arriva da Shenzhen oppure da Guangzhou, sarebbe Canton, dormono da noi, non ci sta facendo neanche muovere. Quelli sposati hanno una casa da noi, e poi abbiamo la nursery che ha dentro 36 bambini. Sembra l'altra faccia della luna, proprio, esattamente. L'ho imparato, Nicoletti, a Billund, alla Lego, perché io sono specializzato nelle materie plastiche, e tutta la roba che noi facciamo è basata, non solo quello, perché facciamo anche armi e altro tipo di sulla plastica, sulle tecnopolimeri. A Billund la Lego ha la nursery, cioè tutta all'avanguardia, al massimo grado. Ma tu vedi girare per gli uffici i bambini, e sono le mamme che non sono stressate, che lavorano bene, ed è una gioia per gli occhi vedere sti gente che gattona, che arriva, cioè, a me piace. Va bene, Oscar, intanto per questo piccolo viaggio in treno no abbastanza, tanto se tu vieni spesso in Italia spero di rincontrarti. Buon viaggio. Sì, grazie. Ale, ale, ale. Ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.